Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:10 minuti primi, riprende il live qui a Blu Radio Veneto, è tutto a posto. Sì, ma... c'è l'intervallo accademico e siamo... L'intervallo accademico, l'ultimo eccetera, qualcosina, poi abbiamo finito l'intervista con Anna Maria Castelli e cominciamo. Cominciamo con i Meschina. I Meschina, ciao, benvenuti a Manuel Guarnieri. Buonasera a tutti. Non sento Manuel. Buonasera, mi senti? Adesso ti sento Manuel. Ciao. Okay, bye Manuel. Buonasera a tutti, quelli che ci stanno ascoltando. Poi abbiamo i due Gianluigi Mameli alla chitarra. No, tastiera. Alla tastiera. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Gianluigi Cortesi. Sì, buonasera a tutti. E poi abbiamo due persone che fanno parte del gruppo, ma che non ci salutano da distante. Ci salutano da casa. Federico Lorenzini e ciao a Marco Rossini. Marco Mossini. Detto Bobby. Ciao Bobby, ciao Fede. Ciao Bobby. Ecco, ciao Bobby, meglio. Facciamo così. Ciao Bobby, ciao Fede. Benissimo, cari ragazzi. Meschina, nata di nascita 2009. Circa 2009. L'idea, a chi è partita? Guarda, l'idea parte da te, Manuel. Parto da un progetto che ho avuto con Marco, che è il bassista. Bobby che ci sta ascoltando. Sicuramente, col cellulare, sicuramente. Oppure via internet. Abbiamo avuto un legame affettivo e musicale, affettivo nel senso come persona, nel certo, senso come amicizia. Bene, esatto, come amici da un sacco di anni, e quindi una decina di anni abbiamo avuto modo di, oltre a essere amici, di suonare insieme in un gruppo. E finita questa esperienza con questo gruppo avevamo che, ancora come voglia, si chiamava il gruppo? Che quello, Manuel, che avevamo prima si chiamavano gli Xeno 5. Erano tradotte per noi 5 luci. Finita questa esperienza, che comunque ci ha portato in giro anche diversi anni, avevamo ancora voglia di fare qualcosa, di proporre ancora della musica, perché comunque è quella che ci faceva, quello stimolo in più che ci faceva andare avanti tutti i giorni, con quella speranza di far ascoltare sempre musica alla gente, di salire su un palco. Ecco, di salire su un palco, questo è importante, cari ascoltatori. Salite su un palco, che i ragazzi li ho visti, i primi stavano provando e provavano in modo professionale, cioè nel senso avevano fatto le prove, ma in una maniera proprio perfetta. Quattro accordi, si sono messi d'accordo immediatamente e là è partito il feeling, è partito subito. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gruppo, la coesione del gruppo esiste da sempre praticamente. Quindi terminata quella voglia che avevamo di proseguire, ci ha fatto cercare nuove persone per il nostro viaggio e abbiamo avuto la fortuna di trovare, oltre che degli ottimi amici, anche dei bravissimi musicisti, perché abbiamo avuto la fortuna di trovare subito un Gianluigi Cortesi che ha una Fender, sono qua, che ha una Fender rossa stasera in mano, che con due accordi ci ha fatto capire che sarebbe stato il chitarrista ufficiale della band, che ha un passato non da poco lui, che ha un passato che dopo ci racconterà, esattamente, un passato molto importante ci racconterà, perché insomma ne ha fatte di cotte e di crude. Bene. E successivamente a Gianluigi Cortesi abbiamo avuto la fortuna poi di incontrare sempre in questo viaggio un bravissimo maestro, un tastierista di quelli con la T maiuscola, che è il maestro Gianluigi Mameli, che è seduto Mameli, adesso che già dal cognome Mameli. Mameli già dice tutto, esattamente. Secondo me dice tutto. Hai un cognome importante. Ma sì, è un cognome importante, nonostante anche essendo musicista non posso doppiamente importante, allora. Non posso permettermi di sbagliare. Ecco, esattamente, soprattutto nell'inno. Non lo posso infangare. Esattamente. quello che manca dopo per ultimo, che è entrato per ultimo, è il più giovane. E ha una grinta che è incontrollabile, è il batterista, che è Federico, che ci dà una mano anche nei cori, che non sembra, perché trovare anche un batterista che canta è difficile, è molto difficile, anche trovare un batterista è difficile trovarlo, ma trovarlo bravo, no, è difficile trovarlo bravo, ecco. Già, va bene, facciamo questa questa differenziazione, che trovarlo bravo, che sappia stare nella sua posizione di batterista, che sappia accendere la batteria nel momento in cui va accesa, ma che la sappia anche metterla in folle o in stand by nel momento, ecco, in cui tu hai detto una frase molto importante, che sappia accendere la batteria nel momento giusto. Che cosa vuol dire per gli immortali? Puoi spiegare una spiegazione proprio che si possa capire di più? Accendere cosa vuol dire? Accendere dare il ritmo significa, allora, che la batteria è lo strumento è la struttura di una canzone. Sì, esatto. Quindi con il basso e la struttura. La batteria, basso e batteria sono la struttura di una canzone. Per un gruppo rock e non soltanto. La batteria fondamentalmente è quella che dà la dinamica. Esattamente. Un brano è vivo. Quindi vivo significa che il brano che respira, quindi ci sono dei momenti in cui si corre, dei momenti in cui si respira, dei momenti in cui si dà colore, dei momenti in cui invece si restringe un po' il colore e si danno delle note un po' cupe. La batteria, esattamente, anche se è la struttura portante di un brano, deve dare queste luci, deve dare questi colori, deve dare questa energia che fondamentalmente si trasmette agli altri elementi del gruppo, i quali lo ritrasmettono poi al pubblico. Cari ascoltatori, in questo momento Marco, in modo molto semplice, ti ha dato una lezione di come si suona la batteria. Gianluigi. Gianluigi, no Marco. Marco è a casa che ci ha ascoltato. Ho sbagliato. Marco Bobby a casa. Gianluigi ci ha dato una lezione. Uno pari. È uno pari, esattamente. Gianluigi ci ha fatto una lezione di come si suona, come si interviene nel modo di dare il là. La batteria è fondamentale in un gruppo rock, come tu giustamente sì, fondamentale hai. Perché è la struttura. È la struttura, cioè, la batteria, portante. È la struttura portante, la batteria è quella che dà i tocchi. E in Meschina che struttura portante è? Federico, è la nostra macchina. È la vostra macchina. È una macchina. È il nostro metronomo. È il nostro metronomo. È una bella è il nostro motore. È il nostro motore, perfetto. E ti dirò di più. Dimmi, Manuel. Concerti? Giusto, Manuel. Manuel, sì, ai concerti cucca anche tantissimo, Federico. Quindi, oltre ad essere che è bravo. Oh, è strano trovare che giovane. Alla fine le ragazze vanno a cercarlo, agli occhi azzurri, è moro, ma dove lo trovano? Ed è bravo. E quindi è un aiuto anche per noi. Questo sicuramente slanciato. C'è un aneddoto da dire, che quando scendiamo dai palchi, no? Da qualsiasi palco che si suona, Federico scende per ultimo, infatti prima siamo sempre noi. Ho capito. questo si usava negli anni 60, però è bello anche questo. È un metodo anche questo. Per coinvolgere la gente, per coinvolgere la gente. Infatti, talvolta avremo anche l'impressione di dire: ma scendiamo dal palco, vediamo alcune ragazze che ci vogliono conoscere, saranno per noi. No, per Fede. Perché insomma, il batterista è quello che. Peccato, perché non l'avete portato stasera? Guarda, stasera, guarda, era in stand-by fino è stato in stand-by fino all'ultimo, ma ha avuto un imprevisto proprio. Stiamo scherzando, però è fondamentale. Il cuore c'è, guarda, tuttora ci sta seguendo, mi ha detto. Quindi secondo me, mentalmente, qua con noi. Sicuramente. Lo salutiamo. Bene, adesso apriamo la cosiddetta finestra. Cosa dici, Gil? Io sono pronto, ragazzi. Sentiamo un primo pezzo che abbiamo scelto da CD, però. Il titolo. Penso che proprio quello che dà il nome al CD. Al title track, che io ho scelto, che a me piaceva particolarmente. Il Rock della Luna, che racconta di un viaggio, soprattutto che abbiamo voluto raccontare, di cinque amici che siamo noi, che andiamo in cerca proprio di quella passione che ci coinvolge, che è la musica. Quindi raccontiamo questa passione con una grinta che ci fa esplodere su un palco, praticamente. Quindi è un qualcosa che ci lega alla musica. Andiamo incontro a un'avventura che può essere un concerto, può essere una serata, può essere un'intervista in radio. Un'intervista in radio. È una bella avventura. Quindi, questa, assolutamente. Il Rock della Luna è una cantata rock sotto davvero una luna che racconta a chi l'ascolta di quello che proviamo noi nei confronti della musica. Certamente. Scorre dentro noi una scarica atomica, adrenalina, le nostre voci che fanno sentire il suo richiamo, un pugnale dritto al cuore, luci che accendono la notte in giorno, ma ora non pensare, questo è sangue che scorre dentro ad ogni anima, per poi farci volare in un tempo senza fine, questa strana realtà, il rock della luna. Sempre lei tanto non mente, ci porta fortuna, canta e canta dolcemente, si illumina come un raggio in fianco al sole. Batte forte il tempo, la scia delle stelle fa vibrare la pelle, le nostre urla che accendono un fuoco dentro al mare, questa è roba bambina mia, la più grande luna per i dannati, un vulcano di energia, chitarre impazzite che accendono. farci sognare in un tempo senza fine questa strana realtà. Il rock della luna colpisce e ferisce in ogni istante, non pensa a niente, si suona più forte con suoni e colori, brucia dentro come la gente. Ricordi impressi fra la gente, i rock della luna. Ah, ah. I rock della luna. Ah, ah, ah. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Blu Radio Veneto, carissimi amici, con voi 22 e 23 minuti primi. Io vi ricordo gli 88 e 700 MHz in modulazione di frequenza, ma vi ricordo anche che chi volesse può ascoltare la nostra emittente anche in streaming entrando su www.bluradioveneto.it e lì sulla sinistra vedete che c'è una cuffia rossa, cliccateci lì e potete ascoltarci in qualsiasi parte del mondo. Vi ricordo oltretutto, se volete mandare un messaggio ai Meschina, potete usare il nostro SMS come avete sentito con il jingle, ma potete anche scrivere un post in Facebook su Blu Radio Veneto Rockway. Questo era la title track, come si usava una volta. E a proposito di usare una volta, c'erano tanti flash, tanti quadri, tanti momenti, che questo è un pezzo nuovo fatto chiaramente in questo periodo, però ricorda determinate cose degli anni 60-70 piacevolmente. No, non è una cover, non è un rifare, è un riproporre quei momenti, quegli input mentali dei nostri componenti della band. È una cosa positiva, secondo me. Sì, sì, sì, è vero. Cosa dite? Sì, è bello perché ogni gruppo, penso, oggigiorno... Un po' più vicino a Gianluigi. Sì, oddio, smontate il microfono. Ogni gruppo, penso che oggigiorno, come noi giovani musicisti che cercano di entrare nel mondo della musica, cercano l'originalità. Esattamente. È un parolone, perché comunque è come cercare una con un pagliaio. Però si può provare, si può tentare. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì. Diciamo che qui è stato omaggiato un po', come dire, le nostre madri musicali. Sì, le vostre radici. Esatto, esatto. Quello che ci hanno trasmesso, quello che, come hai detto tu, degli anni 60, degli anni 70, ognuno di noi ha messo la sua parte, ha messo la sua fantasia e la sua idea, comunque rievocando quello che era una volta il rock alla fine. Esattamente. Gianluigi ha fatto la solo finale, sì, con la Stortcast, questa qua o un'altra? Questa qui no, un'altra. Un'altra. Questa però sembra una Stratocaster. Esatto. Comunque. Però dobbiamo dire una cosa, cari ascoltatori, prima di cominciare la trasmissione, Gianluigi mi ha fatto le lodi di questa chitarra Stratocaster rossa. Adesso le rifai a tutti quanti, così anche gli altri devono sentire perché c'è una lode a questa Stratocaster, Fender Stratocaster. Colore color rosso. C'è da aggiungere anche che sono le sue fidanzate. Ah, esattamente. Guai a chi gliele tocca. Sì, devo dire che questa è la mia prima chitarra seria che ho avuto ancora nei primi anni 80. Quindi questa è una chitarra con la quale ho fatto tantissimi concerti, mi ha accompagnato in tantissime situazioni e in tutte le esperienze musicali. È una chitarra che, alla quale sono molto affezionato, è stato un regalo che mi ha fatto mio padre, che ha detto finalmente voglio vederti con uno strumento serio, originale americano, per cui c'è anche un aspetto diciamo affettivo nei confronti di mio padre, che finalmente ha capito la mia voglia di suonare, la mia verve musicale, e finalmente ha ceduto nonostante dopo tanto sì, perché mio padre diceva no, te non devi suonare, fare l'elettricista, io voglio suonare, fare il chitarrista. E quindi vedendomi con delle chitarre un po' usate, un po' prestate dagli amici, modificate, con i pick up attaccati con lo scotch, mi ha detto guarda, io non posso pensare che mio figlio vada sui palchi con queste cose, io ti compro una chitarra seria, perché se questo è il tua indole, la tua anima, allora che tu vada con la strada giusta. Certo. E vadi, ha cercato di prendermi il meglio che al momento poteva permettersi. Una Fender. Poi dopo questa chitarra, diciamo, ha accettato nel corso degli anni le tue modifiche. Le mie modifiche, le mie evoluzioni musicali, i miei progressi musicali, chitarristici, per cui volevo ottenere qualcosa in più. Per cui mi sono anche divertito molto a sperimentare, a fare, cambiare i pick-up, l'elettronica, anche con le basi di elettrotecnica che ho studiato a scuola, per cui ho raggiunto diciamo degli equilibri particolari, ho aggiunto anche una chitarra che aveva delle sonorità talmente personali che tanti me le apprezzavano, comunque dicevano come fai a avere questi suoni, questa chitarra, guarda, ho fatto questo. Anche se eri uno sperimentatore, insomma. Sì, anche se però comunque dicevo sempre a tutti l'importante sono sempre le dita. Sì. Sì. Tu puoi modificare quello che vuoi, ma suonare le dita. Era un divertimento, no? Il fatto di dire, magari seguivo la storia di un chitarrista che diceva, ma non so, Van Halen metteva un pick up dopo in una certa maniera. Allora suonava il pezzo di Van Halen e diceva, vabbè, anch'io dopo voglio fare una cosa del genere. Richie Blackmore, che è chitarrista di Deep Purple, usava, non so, una chitarra con i tasti scavati. Allora ho cercato anch'io un po' di scavare. Vedi, un chitarrista, caro Gilles, ha tutti questi segreti. È una grande passione. È una grande passione. Il padre comunque era appassionato di musica anche lui? No. No, poco. Forse la musica dei suoi tempi, quindi la musica quella che è, non so, la musica melodica italiana, l'opera. Quindi lui diceva che la musica rock era musica, diciamo che lui non capiva, e io gli dicevo la musica rock è la musica della mia generazione, e per cui diciamo difficilmente riuscirai a capire, come io farò molta fatica a capire le opere. Con lo studio musicale che ho avuto poi negli anni seguenti apprezzo anche questa adesso, apprezzo la validità e la capacità di un musicista di opera, ma anche di un cantante lirico, veramente l'ho capito dopo. Hai capito. Benissimo, sono le 22:28. Caro Gil, cosa facciamo adesso? Suoniamo chiaramente per iniziare il concerto. Penso un live a questo punto. Esattamente. No? Esatto. Che cosa, ragazzi, suoniamo? Io proporrei, se i miei amici sono d'accordo, la canzone che abbiamo proposto per il concorso di Sanremo Autori quest'anno. Benissimo, certamente è una cosa. Facciamo un appunto di questo pezzo e l'atmosfera che avete rispitato. No? Certo. E quando torniamo parliamo anche un attimo di questo Sanremo 2013. Certo. Parliamo anche di questo. Sì. Cosa suoniamo? Allora, il titolo del pezzo? Ricomincio da zero. Perfetto. Ho provato a cambiare la mia vita, le mie carte, le scelte, ma le risposte le ho trovate da solo, come tutte le volte. Ho voluto cambiare il colore al vestito che porto, ho camuffato con un buffo sorriso l'interesse per te. E me ne frego di tutto, a me basta sapere che tu non ci sei. Ricomincio da zero, un altro passo verso il destino, un'altra meta da ricostruire, mi porto un sogno da realizzare. Ricomincio da zero, Che strana nota in questa canzone, cambiare tutto quel caldo rumore che era dentro me. Ho sognato di viaggiare su quell'isola tanto nascosta, mano per mano con un altro ridevi, ma che coincidenza, provare a dimenticare quella notte davvero fatale. Pensavo a mettere un po' di veleno, una stronza in meno. E me ne frego di tutto, a me basta sapere che tu non ci sei. Ricomincio da zero, un altro passo verso il destino, un'altra meta da ricostruire, mi porto un sogno da realizzare. Ricomincio da zero, che strana nota in questa canzone, cambiare tutto quel caldo rumore che era dentro me, dentro me, dentro me. Ricomincio da zero, un altro passo verso il destino, un'altra meta da ricostruire, mi porto un sogno da realizzare. Ricomincio da zero, che strana nota in questa canzone, cambiare tutto quel caldo rumore che era dentro me. Rubriche, musica, notizie e il meteo regionale. Primo piano estate, da lunedì a venerdì, alle 18.15. Primo piano estate. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Parliamo prima della canzone o del festival? Beh, parliamo prima della canzone. Innanzitutto è un bellissimo pezzo pop. Grazie. Possiamo dire pop, è una ballad. Sì. Una ballad. Una ballad. Esattamente. Possiamo dire un'altra cosa da sottolineare: l'impasto vocale. A me è piaciuto molto l'impasto. Le due voci, tutto dal vivo, ragazzi. Non c'è niente di costruito qua. No, tutto dal vivo, assolutamente. Posso confermarlo. Sì, possiamo confermarlo. Certo, certo. Assolutamente. E non è semplice impastare le voci facendo una piccola prova prima, qualche secondo prima di cominciare. Guarda. Qua dal vivo, assolutamente. Cosa dite? Sempre. Sì. Vuoi fare tu? Dai, dimmi. Dimmi. Beh, quello è comunque frutto di esperienza. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, ma sono... Però modestamente. Quando si suona in una radio, sì. Però quando si suona in una radio, in una location diversa, ma... l'esperienza conta fino a un certo punto. C'è anche l'emozione, secondo me. Bravo, non so. E qui mi togli un mio pensiero. Dimmi. Che non è mio. Come dicono in Veneto, dimmi. È un mio pensiero, ma non solo mio, ma di tutti e cinque. Infatti. Secondo me la forza motrice, cioè la forza maggiore di Meschina, sì, è che siamo riusciti a fare nel corso degli anni, ma questo ce ne siamo resi conto anche dopo prima di arrivare a concludere il primo anno assieme, sì, che siamo riusciti a fare con la passione musicale, l'amicizia, 5 testi in una. E non è facile. Questo è importante. E non è facile. Chiaro che ci sono anche comunque. Non è tutto rose e fiori, perché anche noi abbiamo delle. Sì, qualche volta si discute qualcosa, su una magari una cosa ma un'altra. Democraticamente. In una famiglia penso che è giusto che ci sia anche quello. Certamente. Succede. Fondamentale. Però, infatti, come dicevo, la nostra forza è quello che basta il colpo d'occhio, basta lo sguardo, basta che uno intrecci lo sguardo con l'altro, ci si capisce. Questo sul palco, in sala prove o in radio. E questo comunque, come hai detto tu, di amalgamare le voci, perché qui ne stiamo unendo, mischiando due, sul palco ne mischiamo quattro. È ben diverso. Che è ben diverso, certo. C'è anche più lavoro, è più faticoso, però vai poi a sentire la qualità finale, stupenda. Avete parlato di palco, voi avete suonato spesso e volentieri, tante volte, sì, questa sì, è una cosa fondamentale, suonare, perché suonare il live è fondamentale. Il suonare è fondamentale, è più fondamentale, se si può dire, è anche più importante stare in mezzo alla gente. Ecco, questo hai detto una cosa giusta. Beh, suonare si deve sempre stare in mezzo alla gente. Ci può essere 100, 200, 300 persone, ci può essere 50, non importa, si è sempre davanti alla gente. Certo, esatto, che è quello che comunque è quella forza che fa andare avanti, la motivazione, magari quella scintilla che tiene acceso comunque la voglia di fare musica, comunque far ascoltare magari un qualcosa di tuo, sempre magari anche una persona che non conosci, cioè, perché quando penso che una persona scrive una canzone, racconti anche una propria intimità, una confidenza personale, perché una canzone è un segreto, è una confidenza, una canzone è un raccontare di un qualcosa, un'esperienza che si è avuto. E perciò raccontarla comunque a persone che non si conosce, fargliela capire, penso che sia una cosa comunque per un musicista che sia bellissima, secondo me. Ed è quella scintilla che comunque fa avere la voglia di continuare a suonare, comunque a essere sempre a contatto con della gente e fargli ascoltare le tue confidenze. A proposito di dimmi. E qui la cosa difficile è farla ascoltare, ma farla capire. Ecco, Gilda, dovevi dire una cosa a proposito di Sanremo. Intanto, diciamo l'ambientazione con cui avete presentato questo pezzo. In che location era? Siamo andati, abbiamo provato per scherzo a iscriverci a un concorso per Sanremo Autori. Sanremo Autori non è. Faccio capire per chi magari ci ascolta, il Festival di Sanremo che si vede su Rai 1 magari il mese di febbraio. È per quello che chiediamo queste cose. Sanremo Autori è sempre un concorso per autori, ovvero comunque gruppi, persone che fanno proprie canzoni, e sempre a Sanremo, nel parco di Sanremo, ma è un contesto diverso. Comunque ci sono anche dei poeti, ci sono degli attori di teatro che portano un loro pezzo, una loro opera nel palco sempre di Sanremo. Quindi è proprio per chi si fa la canzone fatta in casa e la propone all'ambiente di Sanremo. Quindi questo concorso era proprio quello che volevamo noi partecipare. E, quindi dal punto di vista professionale è importante. Per noi è stata una bellissima esperienza, perché non avevamo mai provato a partecipare, non ce l'avevamo neanche posti di poter partecipare. E ci siamo iscritti per caso vedendo il concorso, ci siamo guardati alla sera in sala prove e lo proviamo a fare. Ma oddio, subito siamo stati un po' lì, perché sai, essendo la prima volta, ci siamo guardati negli occhi, proviamoci. E abbiamo fatto subito una selezione con 6 o 7, penso, giudici che ci ascoltavano, che poi erano presenti alla finale di Sanremo. E subito ci hanno apprezzato per il genere che abbiamo portato, perché era un genere, ci hanno detto, molto similare, ci hanno paragonato anche a un grandissimo gruppo che erano gli Stadio, che era un genere un po' particolare da sentire, e gli siamo piaciuti molto, perché comunque ci hanno continuato a proseguire in queste selezioni. Siamo tornati giù a Pisa altre 3-4 volte, penso, continuare a fare selezioni. E alla fine era un concorso nazionale, ci saranno stati sicuramente tantissimi gruppi in tutta Italia, perché eravamo in tantissimi. Siamo arrivati nei primi 4 finalisti d'Italia. Quindi per noi è stata, oltre che la prima esperienza, una soddisfazione sia in amicizia che anche lavorativamente musicale, perché lavorativamente per la nostra musica era una cosa davvero speciale per noi. Quindi è stata una soddisfazione enorme essere arrivati fra i primi quattro d'Italia con questa canzone, più un'altra che magari facciamo ascoltare dopo, perché ne abbiamo portate due, e è andata strabenissimo così, sicuramente. Magari l'anno prossimo vedremo di fare magari un altro salto o magari un'altra esperienza, ma per quest'anno essere fra i primi quattro d'Italia con un album inedito creato da noi, tutto fatto in casa, è veramente bello. Bene, ne portiamo anche un po' fortuna, visto che oltre gli EQ Maurizio, anche Leo Miglioranza ha preso un premio per la sua musica con Amnesty recentemente, esattamente. Ecco, quindi portiamo bene, ragazzi. Sicuramente, bene, sicuramente non saremo qui, quindi la fortuna sta anche in Blu Radio Veneto che ci ha ospitati, quindi insomma per noi è un onore essere qui. E perciò ringraziamo Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che ha curato, che cura tutti i live. Ciao Alberto, allora, che vi un grande ha contattati saluto. E ha fatto benissimo, chiaramente. Grazie Alberto. Benissimo, allora abbiamo sentito allora questo pezzo e parlava un momento, G dava un input. Ha vinto Mengoni a Sanremo, 30 secondi, e ha vinto bene, secondo voi? È stato il vincitore assoluto, a vostro parere? Secondo me sì, come canzone forse era la migliore. Ma, ti dico la verità. Dimmi, perché... te non ti piaceva? No, mi è piaciuto e molto, anche se abbiamo un genere musicale un po' diverso, ovviamente diverso, certo. Perché comunque sentire un Mengoni con la tonalità di voce che ha, sentirlo ti risulta strano ascoltare un personaggio della musica con una voce molto particolare, con dei toni molto acuti di voce, ha una tonalità molto particolare ma molto piacevole da ascoltare. Tanto è vero che anche durante magari un nostro concerto sicuramente lo proponiamo anche noi Mengoni, magari con la mia di tonalità, perché non è impossibile assomigliarci e non voglio neanche assomigliarci a un Mengoni, però la qualità della canzone che ha portato per Sanremo, il significato della canzone in un momento particolare che stiamo vivendo adesso, come cosa mi fai sentire? Ah, me la fa sentire, quindi un momento molto particolare, e quindi è stata veramente, veramente meritava di vincere sicuramente. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, sostengono con i bene, anche a noi, aiutami dai. Io sono il tastierista, non il cantante. Io li ho lasciati andare, certo. Maurizio. Dai, ti piace? Per apprezzare quello che non ho saputo fingere, mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore è in grado di gelarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. Per me meritava di vincere, ecco, solo per il testo. Si è meritato di vincere. Dobbiamo dire una cosa. Era improvvisatissima, perché sì, non sapevo che me l'avrebbe fatta. Era improvvisatissima. La verità. Era un'idea del maestro, che era il maestro. Assolutamente. Devo dire la verità. Mi arriveranno i messaggi. Un pugno alla spalla. Addirittura i messaggi. Mengoni a Blu Radio Verde. Bene. Aspetta che li ascolto. Ascoltiamo i messaggi. Volevo comunque, ragazzi, io ho due messaggi. Qui ho due post che sono arrivati. Allora... Meschina, guardate che vi sto ascoltando. Un saluto da Mantova, firmato Luca Pagliari. grandissimo, grande Luca, il maestro grande. Luca è il nostro come dire avviatore del sales manager. È la nostra casa anche, perché è uno studio di registrazione. Luca Pagliari, che è un grandissimo batterista anche del panorama musicale italiano, e è la nostra casa perché ci ospita proprio come studio a fare le prove lì, quindi è la nostra casa di tutti i giorni che ci accompagna. Che a sentirci Luca ha una grande pazienza, sì. grande pazienza e passione per la musica. Ti vogliamo bene, Luca. Un saluto anche da parte nostra, quindi Luca, e poi c'è un altro messaggio. Ila. Quanti? Devo dire che questi ragazzi mi sono proprio piaciuti. Bravi, bravi. Firmato Federico Lorenzini. Grande Fede. Il Moro non potevi dire il contrario. Il Moro con gli occhi azzurri. Attenzione anche per messaggio, non si smentisce. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori. I Beschina hanno rivisitato il pezzo di Mengoni, questo è importante, rivisitato, sì. A loro maniera, non hanno fatto una cover, preso carta, copiato, sì. E basta, no, hanno rivisitato, questo è fondamentale. È quello che cerchiamo di dare comunque anche nella cover, la nostra impronta. Certo, la vostra personalizzazione. Perché voi nei concerti fate dei medley qualche volta e volentieri rivisitate, riprendete, allargate, rifate a vostro piacimento i pezzi. Certo. E questo è fondamentale. Sempre con la paura che non piacciono al pubblico. Non importa. Però la critica sta anche nella bella o nella cattiva sorte. Certo. Però certo. L'importante è che piaccia comunque. L'azzardo ci sta bene. L'azzardo, bisogna tentare di prendere un pezzo e rifarlo a piacimento. Sì, questo è reinventare, rifare. Sì, esatto. Io ricordo sempre. Andiamo di un grandissimo, quando cinto lui, Johnny Cash, l'uomo in nero, dovevo alzarmi in piedi, quando aveva fatto One degli U2, sì, di Bono ha detto, e allora la fa meglio di me, cioè l'aveva ricompattata, rivisitata, è diventato un pezzo suo, e quello è fare le cover, esatto, secondo me. Esatto. Questo è vero. Perché tu cosa dici, Gianluca? Io dico questo, che nella mia vita non sono andate tante. Gianluigi. Sono andate tante di cover, di tantissimi Proprio, tu che passato hai a proprio di cover? Visto che hai suonato con certi elementi, tu hai seguito il filone del clan di Celentano, il filone. Diciamo che ho suonato con gente che ha suonato, con professionisti che negli anni 60 hanno avuto così l'onore e la fortuna di poter suonare nel clan di Celentano. Io ho avuto modo di suonare con loro, quindi mi hanno trasmesso la loro emozione, la loro grande esperienza anche di palco. Anche imparato praticamente, posso dire questo? Ho imparato tantissimo, ho saputo stare sul palco, ho imparato a dosare bene la chitarra, perché io venivo da un passato di chitarrista rock, metal, preso diciamo da grandi virtuosismi chitarristici, e lì invece ho imparato a stare in una posizione, diciamo a fare anche l'esecutore proprio di un brano, cioè quindi quello di limitarmi a quello che la stesura musicale richiedeva. Ho capito. Cioè non dovevo fare né più né meno di quello che mi era stato chiesto e di quello che era scritto. Quindi ho cominciato a suonare su degli obbligati, quindi a rispettare proprio esattamente i canoni musicali classici della musica italiana. Ed è stata una grande esperienza, perché lì ho potuto raffinarmi. Poi soprattutto aver suonato in età molto giovane con gente che è stato professionista mi ha formato tantissimo. Ti ha fatto imparare. Mi ha fatto imparare esattamente la professione del musicista, dell'esecutore, colui quindi che è capace sia di fare musica propria, ma anche di saper reinterpretare la musica di altre persone. Ecco, giustamente una nota che avevo letto, voi vi hanno giudicato come professionisti, ma nel senso positivo del termine, professionalità. Cioè quando fate un concerto lo fate in una certa maniera, non buttate niente al caso. Sicuramente, anche perché è quello importante. Per me, insomma, per me penso anche per tutti, cioè andare lì e rispettare un orario, rispettare comunque una scaletta, cercarla di fare più ordinata possibile, anche sia per lo spettacolo di una persona che può anche rispettare il pubblico, esatto, piacevolmente vedere, quindi insomma è un contesto comunque di professionalità dal punto di vista anche organizzativo delle cose, di una scaletta come dicevo prima, anche delle luci, delle impostazioni, di tutto. Secondo me più bello è lo spettacolo da vedere, più piacevole anche per la gente che rimane lì con noi. Sicuramente. Anche se voglio dire questo, che comunque nonostante tutto il fatto di rispettare il pubblico, gli orari, avere un'organizzazione, ci teniamo sempre a fare buona figura, quindi essere sempre pronti a variare anche. Però c'è anche una cosa da dire, che questa l'ho notata in pochi gruppi in cui ho suonato, però con i Meschina sì, che quando inizia la serata è un mistero. Cioè, in che senso? È nel senso andiamo, suoniamo. Non abbiamo cose che sono matematiche, noi sappiamo il brano com'è, la canzone com'è, la scaletta com'è, e poi mettiamo dentro tutta la nostra passione. Ci lasciamo andare, è quello, cioè, ci lasciamo andare, la, ci base, la base è quella là. Anche perché bella. Qualcosa può cambiare, certo. Può cambiare, si può, diciamo, variare qualcosa al momento, e quindi sul palco c'è, quindi c'è un linguaggio che è quello visivo, ma la col cosa, quale ci intendiamo. Dimmi, maestro, bella, dimmi. La cosa più bella è che qualche giorno prima, no, si fa la scaletta della serata. Certo, quindi, certo. Come ha detto giustamente Gianluigi, sì. Gigi, io lo chiamo Gigi Hendrix, lo chiamiamo noi. Nostro soprannome. Fa bene, fa benissimo, fa benissimo. Nome d'arte da niente. Quindi, ma io, come Gigi Hendrix. Come giustamente ha detto Gigi Hendrix, quando sali sul palco è un mistero. Perché? Dimmi. Il leader ti stravolge la scaletta. Però sempre ordinata, cioè è un leader ordinato, cioè, nel tu, senso. Tu ce l'hai davanti che inizi con Mengoni, Battisti, e lui cambia. Renato Zero, e sali sul palco, inizi con Renato Zero, cioè il terzo. Si rispetto al esatto. Ma quello è bello perché ci divertiamo. È quello, quello è vuol dire che conoscete tutti a memoria i pezzi. Ma sì, sì, sì, ormai li conosciamo. Quindi anche ormai, quando dobbiamo dire adesso facciamo una canzone del nostro album, convinti che sia una, invece dopo è un'altra. Cioè, è sempre lui, è sempre lui. È la mente del gruppo, purtroppo. Però insomma, con un colpo d'occhio cerchiamo di in breve tempo di organizzare il tutto. Quindi il fatto che comunque lo vediamo anche come scherzo ironico tra sì, di noi. Certo, certo. E sì, quindi poi dopo come riuscita sul pubblico non traspare nulla, cioè sembra che sia una cosa magari studiata. Prima avevamo parlato di gruppo e di unione di gruppo, è proprio questa praticamente, certo. Riuscire, come tu giustamente hai detto, un'occhiata, già l'accordo è completo, basta un'occhiata, un momento, Manuel dà, no, facciamo sto pezzo qua, ma da un'occhiata, da un input, esatto. E voi sarà il terzo della lista e diventa il primo. A proposito, sì, esatto. A proposito di brano, facciamo ascoltare qualcos'altro del... Un live o il fate CD un live o da disco? Per me facciamo anche un live, perché un live, non fare un live siete mi dispiace. Allora aspetta un attimo, siete che abbiamo... Ecco, finché vi preparate vi ricordo sempre, carissimi amici, che siete sintonizzati su Blu Radio Veneto. Come hanno fatto altri amici di Blu Radio Veneto, se volete potete andare in Facebook e sulla pagina di Blu Radio Veneto Rockway e lì scriveteci i vostri post che noi poi li leggiamo qua in diretta con i Meschina. Maurizio, sì, adesso Manuel sta girando il libro, giustamente dal vivo gira il libro, perché tutto dal vivo, anche girare il libro degli certo, accordi, delle canzoni. Giusto un attimo per avere un flash. E mi pare giusto che sia così. Adesso ci posizioniamo subito. Allora, la prossima canzone è Tele di Sogni. Bene. Vogliamo spiegarlo un secondo? Sì. Breve, dopo facciamo quella più significativa. Maestro, ottimo. Vuoi spiegarlo un momento? Sì, allora, questa canzone è nata sempre da un'idea musicale da parte mia, a livello musicale. Manu mi aveva dato delle tracce scritte, testo, un mezzo testo scritto, ci ho messo su una melodia. Niente, è scelta una cosa carina, l'ho proposta al gruppo, abbiamo tirato su il brano e così via. Devo dire la verità, questo brano mi sta ha molto a cuore, perché... Come mai, Gianluigi? È iniziato sempre come Tele di Sogni, se non sbaglio, forse aveva un altro titolo, ma non mi ricordo. Può essere, perché ne abbiamo cambiati di sì, titoli tanti. Comunque era iniziato per un tema. Sì. E poi dopo l'ho voluto, anche parlando con Manuel, parlando con i ragazzi, trascinarlo a un altro tema. Infatti usando il titolo Tele di Sogni, perché una nostra carissima amica che viene a sentirci così via ha perso il suo caro papà, che era un pittore ovviamente casalingo, però un artista. Sì. Allora abbiamo sviato verso di lui questa canzone dedicata a lui, appunto intitolata Tele di Sogni. Ho capito. A voi gli strumenti, ragazzi, e la voce. Cerco intorno lune bianche come coppe di champagne per brindare al nostro amore. Il mio sguardo che si posa osserva dolce il tuo profilo. Sei sei più bella che mai. Senti questo silenzio, c'è aria di primavera, il cielo è limpido, azzurro come te. Amore, guarda sull'universo e i suoi mille colori creano armonia come musica. Disegnerò per ore ed ore il tuo sguardo ed i tuoi occhi su tele di sogni che sempre porterò con me, nella speranza di una brezza, di un'altra tua carezza che mi scorderò. Spiegarti quanto sia difficile parlare ai tuoi dipinti nel cuore della notte e ricordare il tuo profumo, seguirne poi la scia dove mi porti non so, ma basta ci sei tu in questo mondo così che tanto semplice non è. Viviamo spesso di rancori o di solitudine. Amore, guarda sull'universo e i suoi mille colori creano armonia come musica. Disegnerò per ore ed ore il tuo sguardo ed i tuoi occhi, tele di sogni che sempre porterò con me, yeah, nella speranza di una brezza, di un'altra tua carezza che mi scorderò. Speranza di una brezza, di un'altra tua carezza che mi Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Due minuti alle 23, rieccoci ancora in studio con i Meschina, con Manuel Guarnieri al voce, Gianluigi Mameli alle tastiere e Gianluigi Cortesi alla chitarra. Ragazzi miei, in questa tele di sogni, a mio modo di vedere, c'è si sente qualcosina degli stadio, ecco, forse per quello non si tratta logicamente, assomigliate agli stadio perché avete copiato, no, assolutamente, quando vi avevano detto che avete un qualcosa che assomiglia agli stadio, è sicuramente un complimento. Per noi è un onore, non sì. È un complimento, è un onore, perché è un grandissimo gruppo, assolutamente. È stata una grande soddisfazione dire che, cioè, sentirci paragonati. Avvicinati, dai. Paragonati è una parola grossa, affiliati. Perché insomma. Quindi questo significa che comunque, cioè, siamo riusciti a dare la nostra impronta. Dopo, magari le persone che ci hanno ascoltato mi hanno detto: vi associo un po' agli stadio, mi ricordate molto gli stadio, soprattutto gli stadio primi tempi. Certo. Quindi questo ci ha fatto piacere. Certo. Perché forse sogniamo a un periodo stadio che ora non è più quello. Certo, sicuramente. Quindi è una grande soddisfazione. Insomma, forse magari il pubblico, la gente vorrebbe ancora quello. Per noi è già un premio. Quindi. Possiamo dire ci sono due chiavi di volta in questo pezzo. Una prima chiave di volta è Gigi Hendrix, che praticamente ha fatto il corollato, ha dato l'inizio del pezzo colorandolo in una certa maniera. E poi c'è la voce di Gianluigi e di Manuel, che sono impastate bene. Poi Manuel ha fatto un lunghissimo assolo da solo, proprio, scusate la ripetizione, si è proprio alzato e poi è ridisceso a livelli normali, poi ha fatto uno sforzo notevolissimo secondo me in quel momento. Ma oddio, nel senso positivo, uno sforzo notevole, però che tu sentivi la parte, mi piace, sono, ti ripeto, quelle, raccontiamo anche delle intimità che sono comunque nostre, quindi alla fine te la senti dentro una canzone, quando si può usare di più, quando si può usare di meno, sono tutti i nostri figli. Secondo me ci stava bene anche il falsetto qua, cosa dici? Sicuramente. Ci stava bene il falsetto, assolutamente. Qualcuno mi... Non vorrei che mi diventi un Mengoni. No, assolutamente. Ma il falsetto ha un certo fascino. Io l'ho detto un sacco di volte qua in trasmissione, anche i gruppi quando vengono. E quando uno usa il falsetto, a me piace particolarmente. Guarda, dimmi. Io il falsetto lo adoro. Ecco, è una cosa meravigliosa. Io esco da una scuola musicale di Supertramp. Ecco, appunto, che il falsetto era proprio una caratteristica di Supertramp. Esattamente. No, devo dire che forse potrebbe essere un'idea. Per qualche modifica live di questo brano. Ecco, appunto, io ho tirato l'amo, poi vediamo se qualcosa capita. In ogni caso, tutto racchiuso in una melodia, questo era un pezzo melodico, fondamentalmente melodico, ma non c'è niente di male, anzi, è assolutamente... La melodia è una cosa che qualcuno dice, no, una melodia è come fosse una brutta parola, ma la melodia fa parte, è la cosa essenziale di un pezzo. Che poi qua... Poi allargata, quello che possiamo... volere o fare, ma non importa, la base deve essere quella. Anche perché c'è da dire che in Italia l'azzardo non è poi visto bene, a meno che non sono veramente grandi maestri che lo fanno. Però appunto per chi è emergente, per chi è giovane o per chi si vuole indentrare in questo mondo dello spettacolo musicale, alla fine la melodia è quello che racconta tutto, quindi tocca il cuore, tocca l'anima, tocca l'orecchio. Si è sempre detto che la musica più bella, diciamo, la musica che rimane più impressa è quella fischiettabile. Questo è vero. Allora, anche, dimmi. No, scusa, io avevo due messaggi appena... Concludo, anche se Gigi Hendrix si è un po' limitato in questo caso. Ma è un'acustica limitata. Devo dire che siamo diciamo che in un contesto... Perché io ho aspettato un giro... Nel disco cattivo, un girone. Diciamo che sul disco, anche live, diciamo che faccio qualcosa in più. Sì, lo so. Ma io ho tentato... Siamo in un contesto in cui... Lo so, ma ho tentato di pungolarti. Ho tentato di pungolarti, sai, vediamo... Volevo magari aggiungere questo. Dimmi. Sul discorso della melodia, che comunque noi siamo comunque italiani, la musica italiana è la musica melodica, la musica del cuore, per cui anche se amiamo molto il rock, il blues, tutte queste influenze diciamo anni 70 che sono state anche frutto di una rivoluzione anche giovanile, certo, Beatles in testa, esatto, praticamente, perché sappiamo benissimo che ogni genere musicale c'è anche una rivoluzione sociale dietro, assolutamente, però comunque giustamente lo reinterpretiamo da italiani. Giusto. Con la nostra musicalità nel cuore, anche se magari possiamo fare musica aggressiva. Certo. Come il rock lo è, musica anche di contestazione, però gli diamo un tocco di colore, di musicalità, perché insomma siamo italiani. Chiaro. Ecco, qui tolgo un appunto. Dimmi. Come appunto Gigi Hendrix ha detto che siamo italiani, infatti noi in Meschina abbiamo scelto di fare proprio solo musica italiana, di cantare in italiano, perché anche perché è dare valore e scoprire soprattutto cantanti italiani. Noi abbiamo iniziato anche con dei gruppi come Immodà, che all'epoca non erano conosciuti, assolutamente, adesso lo conosco tutti, Immodà, tutti da Sanremo, dal disco precedente, però addirittura noi suonavamo Immodà già da quasi da 4 anni fa, dagli inizi. Il Rio, che non conoscevano il Rio, che era il fratello di Ligabue, esatto, Alex Lunatti, che ripeto erano un po' sconosciuti, diciamo. Quella è stata comunque la nostra benzina, quello che ci ha portato a fare tanti concerti, tantissimi concerti, perché appunto facevamo dei brani non classici che tutti i gruppi fanno. Infatti ci siamo voluti un po' estinguere dai tanti gruppi nel circondario, appunto per quello, per non cadere nella stessa musica, cambiano le facce ma non la musica. Addirittura quando suonavamo ai concerti queste canzoni, che allora di questi gruppi erano praticamente non li conoscevano, ci venivano a chiedere a fine concerto allora se erano nostre canzoni, perché era quello proprio che volevamo proporre alla gente, delle canzoni di gruppi bravissimi per noi che nessuno conosceva. La novità. E alla fine, quando finivamo, bella quella canzone, è la vostra, no? Guarda che questa canzone è dei Rio, l'ha scritta Fabio Mora con col fratello di Luciano Ligabue, che è Marco. Che Marco, sì. E quindi alla fine con le canzoni che poi tuttora a noi piace suonare, perché anche se magari sono un po' meno nascoste o comunque suonate per radio, a noi piace comunque farle ascoltare, perché fa parte del nostro percorso di viaggio, ecco. E poi vorremmo anche valorizzare la nostra musica italiana, come giusto che sia, secondo me. Dimmi Gigio, avevi un messaggio? Sì, c'erano, ragazzi, altri due messaggi. Allora, forza Meschina, un abbraccio dai No Trax. Oh, grandissimo, grande gruppo. Un abbraccio di cuore anche a voi. Tutti amici, grazie. Tutti continuate amici. Continuate così e portate la vostra musica il più lontano possibile. Che Gianni, bello. Stefano, Silvana e Giancarlo. È un grande gruppo, di quattro voci che sono spettacolari. Quindi con piacere li ricordiamo, perché sono dei bravissimi cantanti, bravissimi, professionisti anche loro, sicuramente. E poi, seratona con i Meschina. Marco, Patti, Michele. E là, famoso Bobby. Il famoso Bobby. Vengono tutti, alla fine del nodo. Quindi alla fine, con il cuore sono qua. Quindi abbiamo completato il gruppo. Bellissimo, sì, bellissimo. Maurizio, a te la parola. Sai cosa c'è a quest'ora? Mettiamo su un pezzo prima e poi facciamo il giochetto, cosa dici? Sì. Il giochetto. Allora. Sì, un giochetto. Adesso è bello dell'improvvisazione. È tutto sentiamo il giochetto. Il giochetto. Allora, il prossimo brano facciamo ascoltare da CD. Sì. Sì. Io volevo chiedervi una cosa, che la canzone si chiama Poesia. Sì. Faccio un attimo sempre. Facciamo una presentazione. Sì. Perché è la seconda canzone che abbiamo portato per Sanremo Autori. E siamo tantissimo legati, perché appena abbiamo saputo della morte di questo artista, che comunque è quello che ci ha accompagnato in tantissimi anni di musica, nelle radio, nei concerti, nelle televisioni, perché è stato ovunque, è un artista internazionale bravissimo, appena abbiamo saputo di questa scomparsa di questo artista, ci siamo guardati un attimo negli occhi e abbiamo voluto fargli una dedica proprio speciale per lui, perché secondo me difficilmente troveremo ancora degli artisti così nella musica allora italiana. Facciamo così, Manuel, facciamo ascoltare questa canzone e poi entriamo, anche perché voglio chiedervi una cosa sulla foto di sottofondo che c'è al testo, che è veramente significativa. Allora ascoltiamoci Poesia, sono i Meschina. Poi scappi via, come gli angeli ballano il tango in una favola. C'è il paradiso ora qui giù da noi, tutto è più scuro, ma quando canti tu tutto è poesia che non va più via. Specchio di un uomo, silenzio lì giù dal palco il 4 marzo, il tuo canto, la gente pensa quanta ironia, la buffa bocca, quel tuo sorriso, ma quando canti tu tutto è poesia che non va più via. Specchio di un uomo, bontà. Caro amico, ti scrivo questa canzone. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Beh, ragazzi, veramente complimenti per questa canzone, visto che penso, non so chi non abbia amato questo cantante. Avete fatto un testo veramente eccezionale, accompagnato da un rock che ci stava tutto. Personalmente mi veniva la pelle d'oca a pensare a chi era dedicata, e voglio anche sottolineare che avete fatto una cosa bellissima. Su questa, sotto il testo, in pratica ci sono queste nuvole e c'è in fondo la foto di Lucio Dalla. Molto lontano, si vede nell'album. Si intravede forse. Abbiamo voluto sussurrargliela, diciamo così. Non era una cosa né obbligata né un sussurrargli un grazie. Era complimenti sinceri, ragazzi. Maurizio, sì, giustamente si parlava mentre il pezzo andava, che è un pezzo molto bello. Non è mai stato citato Lucio in questo pezzo, è stato citato attraverso i suoi titoli, le sue frasi. E questo è fondamentale, è un'idea molto interessante. Non citare il personaggio, ma citarlo, cioè dare la possibilità alla gente che ascolta di capire, di entrare dentro il personaggio. Ma questo perché comunque lui si è fatto conoscere con quei brani. Chiaro, chiaro. Quindi non tanto come Lucio Dalla persona, no. Si è fatto conoscere come Lucio Dalla artista. Esattamente. Poi, chi l'ha approfondito come artista l'ha conosciuto come persona. Giustamente, giustamente. Quindi noi abbiamo voluto ricordare Lucio Dalla artista, perché è quello che abbiamo nel cuore. Chiaro, chiaro. E ci accompagna tuttora con i suoi CD e in radio, quindi insomma è quello che ci accompagna con la sua musica. Sì. Andando a lavoro magari la mattina, o comunque una sua canzone quando si ascolta, penso che faccia sempre piacere. Sì, c'è sempre un pezzo di Lucio da sentire durante, cioè, dico sì, sicuramente durante la giornata un pezzo di Lucio verrà sempre ascoltato. Sì, sì. È un patrimonio che non morirà mai, chiaramente. E si farà fatica a trovare un personaggio così, anche molto particolare, anche come carattere, sì, come artista di per sé. Era un talent scout, esatto, dobbiamo dire anche questo. Sì, cioè, esatto. ha scoperto Samuele Bersani, ecco, bravo. Ha scoperto gli stadio stessi. Dicevo proprio quello, perché Carboni, quindi ha dato la possibilità a molti di uscire alla scoperta. Gli stadio in primis. Se ne fossero tanti come lui. Esattamente. Con gli stadio aveva un rapporto molto interessante, sì, musicalmente, perché era un tutt'uno praticamente. L'hanno accompagnato per anni, 20 anni, penso. Esattamente, sì, quindi per tantissimi anni. Per tantissimi anni, però una bella carriera. era anche capace di capire, diciamo, un artista, quello che poteva dare. Magari era capace di trasformare un tastierista in un cantante. Sì, questo è vero. Ricordiamo che aveva cominciato a suonare il sax e aveva cominciato a suonare negli anni 60, Lucio, sì, nelle formazioni beat. Quindi mi pare che la sua prima band fossero i Flipper. Mi dice qualcosa. Sì, i Flipper erano un gruppo di Roma, lui suonava nei Flipper, chiaramente. Sì. Ok, adesso c'è tempo, cosa dici, Gil? C'è tempo, così abbiamo qualche tempo. Sì, facciamo due pezzi, tre pezzi a testa, velocemente. C'è un famoso giochetto. Lo facciamo adesso. Sì, l'ho spiegato adesso per essere buono. Non dovevo spiegarlo, ma l'ho spiegato mentre il pezzo andava, sì, ai ragazzi dei Meschina. Sono i famosi tre dischi da portare su un'isola deserta. Non sono dischi, sono entità musicali. Sì. I vostri amori. Sì. Ecco, tutto là. Chi vuole cominciare? Ne facciamo uno ciascuno? Facciamo 3-1, 3-1 e 3-1. Ah, 3-3-3. Non si possono copiare. Beh, assolutamente no. Parti tu allora. Gigi Hendrix, vai. Sì, esatto. Dai, il mio disco che ho nel cuore principalmente è Made in Japan dei Deep Purple. Tu sei un texiano. Sì. Sei un Deep Purpleiano in questo caso. Sono Deep Purpleiano, cioè, sì, anche perché, diciamo, è stato il primo disco che sono riuscito a comprarmi da 10 anni con le mie mance. Appunto. Mi ricordo che quando entrai nel negozio di dischi dissi: vorrei Made in Japan dei Deep Purple. Mi ha detto: ma sei sicuro? Sì, quello lì. Gli ho anche indicato la copertina, gli ho spiegato tutto, anche le canzoni che c'erano. Il secondo comunque è Band of Gypsies di Jimi Hendrix. Vedi caso, non poteva mancare. Da un chitarrista. Jimi non poteva non mancare. Jimi Hendrix è stato grande ispiratore, però diciamo il primo disco che ho avuto nel cuore comunque è stato Made in Japan. Voglio essere, diciamo, vedi caso, stanno ristampando con me stesso e anche lo con ristampano continuamente, continuamente torna in classifica. Band of Gypsies, sì, esatto. Un grande LP che forse, diciamo, solo gli hendrixiani riescono, diciamo, ad apprezzare. E là, quello è un pezzo storico di Jimmy. Spettacolo. Che non è neanche di Jimmy, lui l'ha ripreso. E lui a memoria, spettacolare. Gigi Andy che lo sta accompagnando. Sta suonando sopra, uno spettacolo. Ok, ok, Rock non muore mai, assolutamente, vivrà sempre. È il suo preferito, non c'è niente da fare. È andato. Qui mi provocate. Inviti le occhi a bere qua, attenzione, che è una strada che... Bello, bello, bello, bello. Beh, ti inviteremo per una prossima puntata. Grazie, vabbè. E il terzo disco, ci tengo a dirlo, è Blues Alive di Gary Moore. Ah, un altro chitarrista che se n'è andato. E però ha lasciato un grandissimo patrimonio rock blues. È vero, era molto amato dalle nostre parti. È un chitarrista che comunque ha avuto una storia dove è partito suonando rock. Sì. Rock anche rock satanico. Sì, vero. Nel filone, diciamo, sì. Tipo Ozzy Osbourne. Sì, esattamente. Dopo comunque ha fatto emergere la propria vena blues. Vero. E quindi io l'ho apprezzato per questa grande vena blues che ha preso dei grandi musicisti del blues che sono B.B. King, Freddie King, e però l'ha trasformato con questa grande aggressività, con questa grande carica musicale e grande duttilità sonora, era bravo. Devo dire che ancora adesso quando ascolto i brani di Blues Alive, che ci tengo, è un LP fatto dal vivo, certo, assolutamente, mi vengono i brividi. Benissimo, questi sono le tre scelte di Gigi Hendrix. Esatto. Tocca a voi adesso. Ecco. Facciamo una cosa di questo genere. Mentre voi scegliete, Gigi Hendrix fa un sottofondo. Oh, okay. Quello che vuole. Ma ti dico la verità, per me ne ho due stranieri. Anzi no, ne ho uno straniero e due italiani. Bene, vai. Io sono innamorato e vado pazzo, infatti mia moglie a volte quando divorzia ascolto quel non ce la fa più. Esattamente. Io sono innamorato di Ennio Morricone. Ma sarà anche per lo strumento come tastiere che avvolge. Comunque è una. Ennio Morricone, come lo vedi, direttore d'orchestra o musicista, no, di western, eccetera? No, come compositore. Come compositore? Come compositore ha creato veramente. Con la sonora da film, allora? Sì, sì. Ha delle bellissime sonorità, quindi delle bellissime colonne sonore che melodicamente. Ma non sai che negli anni 60 arrangiava tutti i cantautori della hit della RCA Morricone, no? No. Ecco, Morricone arrangiava i famosi pezzi. Prima con Anna Maria Castelli abbiamo citato Luigi Tenco. Tenco ha scritto dei Primitives e l'arrangiamento era di Ennio Morricone. Tutti i pezzi, i primi dischi di fine degli anni 60, inizio anni 70 di Gianni Morandi sono stati arrangiati Ennio Morricone. Beh, questo ho imparato una cosa, ecco. Nuova. Conosco una cosa nuova di Ennio Morricone. Un disco non saprei dirti, io porterei proprio tutta la discografia, è fantastica. Ecco, Gilda ha pescato subito, mi tocca il cuore. Esattamente. Questo è il primo. Il secondo, vado sullo straniero, anche lì non c'è un disco, lì c'è tutta la discografia di Queen. Ah, tutta la discografia di Queen. Per me, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo. Anche se i primi erano un po' più Hard rock, rockettari, esatto, forte. Erano esatto. Proprio hard rock i primi. Però secondo me come voce di Freddy non. Non ce ne sono più. Assolutamente. Lì anche dall'ultimo live che ha fatto Wembley. Sì. Un uomo che ha quella potenza lì. No, è insostituibile, sì, la voce infatti, di Freddy. Esatto. Hanno cambiato con un altro cantante, ma non c'è niente da fare. La voce era la sua. E basta. E sentiamo il sottofondo. Freddy era... Questa è un'opera d'arte. Sì. Questa è un'opera d'arte. Esattamente. E invece il terzo, lo stesso, è sempre italiano. Anche se diciamo che a percentuali però faccio vincere l'italiano. Perché, bene. Ripeto, sono innamorato dei Supertramp, la musica dei Supertramp, Eagles, quello che è il country blues. Però come terzo disco porterei il Rio. Ah, è Dio. E non è conosciutissimo come band. Però infatti invito a conoscerli perché Fabio, lo conosciamo anche personalmente, lo salutiamo, però Fabio Mora ha una voce stupenda, veramente stupenda, è una voce che la usa, cioè nel senso Come te lo posso spiegare? Cioè, come uno dice, la chitarra la fa cantare, lui la sua voce la fa cantare. Beh, bravo, è bravo. Sì, la sa usare. La voce è uno strumento difficilissimo, sì, perché è naturale. Fondamentale. È naturale. Ripeto, lui per me... Quindi Rio, sentirlo cantare e sentire poi tutta la loro sonorità alle spalle. Sono bravi i Rio. Bello, purtroppo, sai cosa hanno avuto i Rio? Inconsciamente ha avuto la pressione di essere fratello di Ligabue. Ma quello sì, sicuramente magari è influenzato. È influenzato. Però certo. Io ho notato che seguendo molti concerti live, sì, non solo loro, però altri concerti live di cui sono dove sono stato, e così che hai visto praticamente. Il Rio, sono, infatti lo dico, l'ho sempre detto anche a Manuel, ragazzi, è un gruppo umilissimo. Ah, ho capito. Perché loro salgono come artisti, scendono come persone. Perfetto. E questo è stupendo. Questo è fondamentale. Questo, e non è da tutti. No, non è da tutti. Assolutamente. Questo è stupendo. Qualche volta uno scende, sale come star e, sì, e scende come star. E esatto. Non è proprio così. Qualche volta. Non è bello per chi è il no, fans. No, perché la gente, cioè, le star cosiddette, devono ricordare che se sono diventate star, sono diventate per merito di chi, sì, li sta, sì, applaudendo, esatto, adesso. Esatto. È quello. Infatti, il motivo. Il bello dei concerti del Rio è che tu vai, li vedi sopra, sono animali da palco, ti danno lo spettacolo, ti danno lo show, ti fanno sognare, emozionare, scendono dal palco, come ti ho detto, salgono da star, scendono da persone, aprono i cancelli a tutti. E questo è quello, è una, cioè, cosa è tanto importantissima. Di cappello. E questo serve anche, è un insegnamento per noi. È chiaro. Manuel, tocca a te. Guarda, per me parto in ordine dal terzo fino al primo, perché guarda, senza sapere che mi nominavi Rio, Rio anche per me è un album che porterei precisamente Il Sognatore, per, sì, chi vuole, sì, andarlo a cercare. Uno degli album molto belli che ho ascoltato, sia a livelli di testi che di canzoni, quindi è un album che sicuramente porterei via con deserta. Me. Sì, sicuramente. E anche perché loro hanno proprio queste chitarre hawaiane, queste chitarre molto estive da ascoltare, è un disco molto molto bello, quindi mi piace portarlo nel mio bagaglio di ricordi. Al secondo posto porto sempre un gruppo italiano che sempre siamo legati affettivamente, che sono i Modà. Primo guarda, anche quello degli ultimi, mi piace molto l'album Vive i Romantici, perché è quello proprio che hanno iniziato la loro avventura, proprio iniziandoli a sentire per le radio con Sono Già Solo, La Notte, hanno vinto tanti Music Awards, sì, anche un sacco, insomma, di successo. Quindi è un album che ho ascoltato tantissimo, oltre che è molto bello personalmente, certo, sempre, quindi ci tengo molto anche quello, portarlo su quell'isola. Al primo posto penso di mettere l'album di un caro amico che penso di averlo ascoltato talmente tante volte che il CD si rifiutava di farsi ascoltare, perché l'ho consumato talmente tanto. E il titolo del CD è Il Topo Grand Hotel, era di Omar Pedrini. È di Timoria praticamente. Dei Timoria, esatto. Quindi... Come hai scelto i Timoria? Gruppo molto importante nella scena italiana, che guarda, poi per motivi diversi si è sciolto, perché praticamente si è sciolto, che Pedrini ha deciso che la, esatto, band non doveva, quindi, doveva. Allora suonava era con Francesco Renga, esatto, che era il primo cantante, esatto, è stato esatto, Pedrini cantante. Si occupava la parte comunque arrangiamenti, sì, cori, autore, compositore, comunque era un bel gruppo, Timoria, sicuramente, aveva un sacco di sonorità interessanti. Quindi è Il Topo Grand Hotel è un grande disco, il Topo Grand Hotel è uno dei grandi dischi che tuttora lo ascolto, mi viene veramente la pelle d'oca, perché è uno dei più bei album che ho sentito italiani. E quindi, insomma, oltre che Omar, che è un grande amico, che tra l'altro stasera ci siamo sentiti, gli dicevo che venivamo proprio qua a Blu Radio Veneto, e mi ha detto fai un grande saluto anche a loro, perché comunque Omar Pedrini ci tiene tantissimo anche alle radio, comunque, certo, è un grandissimo artista, quindi oltre che un amico un artista, e quindi l'ho ascoltato non tanto ma di più questo album qua. Benissimo. Quindi mi fa piacere portarlo con me e nel mio bagaglio di ricordi. Bene, sicuramente ringraziamo anche Omar Pedrini per i saluti, e adesso suoniamo qualcosa, eh sì, perché live, i Meschina sono live, c'è poco da fare, e qua live. Siete solo live, e anche i dischi chiaramente, però qua siete venuti per suonare, assolutamente, soprattutto. Assolutamente. Che cosa, ragazzi? Voglio? Vuoi fare voglio o preferisci voglio? Maestro, cosa dice? Ecco, ha iniziato il maestro. Dopo vi spiego da come è nata questa canzone. siamo complici io e te. Ho imparato ad ascoltare i tuoi pensieri che si incidono su noi, ma stare in silenzio non è facile. Che mai si dimentica, così lieve e magica. Ma la rabbia sale e non si ferma più. Voglio le tue grida, voglio il tuo silenzio. Fiamme bruciano, sei un angelo caduto da un altro cielo, bianche sono le tue ali, danzano. Il cielo piangerà lacrime di rosa su quell'angelo disperso, si ricorderà di me che in silenzio pregavo solo per non perderti. Voglio le tue grida, voglio il tuo silenzio. Rosse sono le mie fiamme, bruciano. Sei un angelo caduto da un altro cielo. Bianche sono le tue ali, danzano. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ecco ragazzi, il vostro bassista Marco Mossini vi dà la buonanotte e vi dà appuntamento venerdì all'Open. Ehi là, è il nostro concerto venerdì, suoniamo dal vivo in un locale e vi aspettiamo, allora invitiamo tutti perché comunque venerdì saremo lì all'Open Space di Mantova, che è un bellissimo locale, e avremo un live di un paio di ore. Sì. Dove oltre a presentare comunque il nostro album faremo ascoltare qualche cover un po' particolare a tutti gli amici. Quale cover particolari? Possiamo dire anche, possiamo dire dei Timoria, possiamo dire un Zucchero, ci possiamo dire tantissimi, possiamo dire anche Vasco, Neck, quello che capita. Neck, un grande artista anche, che a noi piace tantissimo Neck, assolutamente. Possiamo fare anche un assaggio degli anni 60 che è sempre gradito comunque, però a modo nostro. A modo poi vostro. Io ho un altro messaggio da un nostro carissimo collega, ciao Agostino, che sta ascoltando, e mi dice di dirvi appunto che ha conosciuto Omar Pedrini qualche giorno fa e conferma che ci ha salutato e che presto dovrebbe venire qui a Blue Radio Veneto. Ma dai, bene, mi fa molto piacere. Tra l'altro so che Omar fra poco uscirà anche il suo album di inediti, quindi faremo un grande in bocca al lupo anche per questo, perché so che è imminente, penso di aver letto qualcosa sul 13 o 14 di settembre che uscirà anche il suo singolo, quindi io gli farei un omaggio. Addirittura, ma lui ce l'ha questi escalate le qua vengono sempre. Vediamo il bello di Meschina. Maurizio di Calzavara, una persona che conosco, direbbe: ragazzi, questa è la diretta. Certo, la diretta è questa. Cosa volete fare, ragazzi? Guarda, fammi sentire. Gigi Hendrix sta intonando il pezzo. Sembra ecco. Impazzito. Ah, ok. Io vi lascio andare, ragazzi. Penso che un tempo quel campo perché un giorno ho detto addio. Wave Live. Allora, improvvisiamo tutto. Questi sono Manuel Guarnieri, Gianluigi Mameli, Gianluigi Cortesi e sono i Meschina. Ragazzi, non ho parole, veramente sono stato. Innanzitutto dobbiamo dire, cari ascoltatori, che le voci, gli impassi di voci tra Manuel e Gianluigi mi hanno perforato l'orecchio, assolutamente fortissimo. E poi alla fine avete fatto un coro a cappella. E tu hai fatto un momento in cui hai giocato col prog, col piano, sì, sì. Cosa dici? Sì. Io, e quel momento che hai giocato col prog mi sono alzato in piedi perché era proprio mi sono emozionato. È la mia vita, è il prog, la sua vita, mi sono, come fossi anch'io dentro al gruppo. Che bello, siete stati bravissimi. Grazie. Un pezzo molto difficile, assolutamente difficile. Complimenti. Grazie. Ho una piccola scuola Dream Theater. Va bene, fanno bene alla salute anche quelli. Bravo, esatto. Che bello, cari ascoltatori, qui le cosiddette scalette non esistono. Assolutamente, perché il live è bello così. Certo. Si cambia, fino alle 24 si cambia. Dimmi. Va vissuto. Il live deve essere momento, così, certo. Se no non è un live. Sì, bisogna improvvisare sempre nell'ambito dello schema che vi ha parlato Gigi Hendrix prima. Ciao. Maurizio, dimmi. Devo fare un saluto particolare ai ragazzi. Alberto Prisco mi dice ci sta ascoltando. Ah, bene, al mare, lui è al mare. Però quale vacanze? Quale vacanze? Un tuffo. Bene. E ovviamente fai i complimenti anche a Alberto. Grazie. Decisamente ottimo. Siete andati increscendo sempre più forte. E non è ancora finito. Scaldiamo i motori. Non è ancora finito, ma ancora 20 minuti circa. Dimmi, cosa posso dire? No, davvero, a parte che non sapevo che me la voleva fare, però. Ma quando il maestro comincia a giocare con le tastiere. No, abbiamo pensato quando abbiamo cominciato a parlare di Omar Pedrini, di Timoria, ci siamo guardati io e Gianluigi, mio omonimo. Esattamente. Posso dirti, Gianluigi? È un po' dimenticato, sono un po' dimenticati i Timoria. È un peccato. È un peccato. Hanno fatto la storia del rock italiano, certo, l'hanno fatta anche loro, per tantissimi anni, Quindi si pensa ancora che Francesco Renga è iniziato proprio con loro, che penso che Renga sia una delle più belle voci che abbiamo anche qua nella nostra Italia. Quindi adesso Renga ha un'altra dimensione, ha avuto la fortuna di percorrere un percorso da solista molto, molto valido, perché ha vinto Sanremo, quindi ha fatto tantissimi album anche da solista. Però manca il gruppo. Esatto, manca cosa quel rock, quella spie, quel distorsio, quella distorsione che c'è nella chitarra. C'è una cosa da dire. Più... Scusa Gigi, Hendrix, scusa. Cioè, no, c'è da dire che secondo me... Ha fatto bene secondo voi andarsene nel gruppo? Ma questo non lo so, perché i problemi che magari avrà avuto all'interno sono cose personali. Certo, certo. Ma come dal punto di vista della musica? Secondo me dal punto di vista della musica Omar non è ancora capito. Secondo me. Ho capito. Un po'. Non ho inteso. So, ho inteso. Ripeto, l'Italia è molto difficile. Musicalmente. Decisamente. È molto difficile. E come dicevo prima, se azzardi una novità, o sei dentro in pieno, o sei fuori. Lo so. Nonostante Omar sia una persona che comunque scrive, le sue canzoni sono poesie. Poesie. È proprio quello che stavo dicendo, che Omar, comunque, quello che lui scrive è quello che tutte le persone vivono tutti i giorni. Alla fine non racconta, non dico che non racconta niente di nuovo, però ha il coraggio di dirlo, è quello che pochi hanno, cioè c'è la maggior parte della gente è quelle persone che lanciano il sasso e nascondono la mano. Sì, esattamente. Invece lui ha avuto, ha lanciato sempre il sasso, lui, e la mano, esatto, non l'ha mai nascosta. Difatti, spesso e volentieri, purtroppo, anche dal punto di vista musicale, è stato leggermente lasciato da parte. Forse perché ha raccontato comunque una società che realmente è esistita. Sì. C'è tuttora. Certo. C'è tuttora, quindi purtroppo. Lui ha avuto il coraggio di dirlo e ha avuto i cosiddetti per portarlo come voce a un microfono. Quindi come voce nel microfono. Volevi dire qualcosa prima, Gigi? Sì, volevo dire questo, che effettivamente forse nel repertorio musicale rock italiano manca un gruppo come i Timoria, che avessero quel rock abbastanza graffiante, abbastanza, diciamo, graffiante e anche melodico, nel senso, anche melodico, però anche comunque rock di contesto, proprio, cioè il fatto di magari anche spiegare, cioè, una realtà che tutti sappiamo che esiste, però che tante volte cerchiamo di nascondere dietro l'uscio. Esattamente. E quindi, diciamo, un gruppo che si esponga in questo modo qua, anche se magari potrebbe anche essere un personaggio scomodo. Teniamo presente che comunque dietro la musica, dietro anche l'avanzare della musica, ci sono sempre le radio, ci sono sempre le produzioni discografiche, e che magari in certi casi possono dettare anche un certo monopolio, cioè magari vogliono, non so, certe produzioni musicali proporre al pubblico un determinato tipo di musica anziché un altro. Sono d'accordo. Forse magari quello, ecco, più frivolo, quello della, non so, della canzoncina da ascoltare alla radio, da fischiettare, e non quella con il testo abbastanza serio e effettivamente da apprezzare in un modo molto molto, diciamo, d'ascolto. Probabilmente si preferisce questa musica un po' più frivola, musica un po' tipo, non so, come la bibita frizzante che dopo 5 minuti ha perso le bollicine. È vero. Però vogliono questo. E i Timoria avevo quel compito, quella caratteristica di proporre sempre andavano avanti sempre in un certo segno, senza tanti giri di parole. Quello dicevano. E purtroppo non quei giri di parole, quando non ci sono i giri di parole, si va sempre dritto all'obiettivo, spesso e volentieri vengono lasciati da parte. Ma questo può però chiaramente il gruppo aveva concluso l'iter, chiaramente, certo, è andato avanti, certo, così. Ma secondo me questi problemi succedono anche perché magari, sai, grazie a Omar i Timoria si sono un po' evoluti, cioè, sì, nel senso, beh, uno, Omar è uno che studia, che sperimenta, sì, assolutamente. E magari secondo me anche il discorso della fama, che magari quando inizi veramente ad avere un nome, a sentirti, perché gli altri ti fanno sentire importante, comincia a pesare un po' più le braccia, comincia, cioè, a pesare, non dai valore al fatto perché sei arrivato lì grazie comunque a un gioco di squadra, sì, quindi alla fine è come per dire, non lo so, cioè, esiste un Ronaldo, ma il Ronaldo se lo metti contro 11 non fa mai gol. Certo, sì. Si vuole il gioco di squadra, chiaramente. E una band deve essere sempre un gioco di squadra. Soprattutto. Sì. Purtroppo quando c'è il leader, che può essere anche bravo, però il leader deve avere l'intelligenza, secondo me, di giocare assieme agli altri. Spesso capita però che il leader non vuole giocare, o meglio, per motivi diversi gioca da solo, e qualche volta capita che giocando da solo la band si rovina. Sì. Sì, capita. Purtroppo. Quindi esattamente esce, diciamo, la persona e proprio fa la sua carriera da solista, che come voleva fare, perché tante volte magari all'interno di una band c'è da dare una svolta, sì, sono d'accordo, e non sempre le idee sono condivise. Certo, è vero. Che svolta facciamo adesso? Sono le 23:46. Se volete, o facciamo una da CD, oppure vi faccio ascoltare ancora qualcosa dal vivo. Ma io, dimmi. Io direi di fare ascoltare l'ultimo brano del CD, del CD. E poi facciamo un gran finale. Allora. Sì, va bene. Magari ci stanno anche due live. Sì, penso di sì. Cosa sentiamo da disco? Allora ci sentiamo Sei tu. Sei tu. Sei tu è una grandissima canzone, quella che mi tocca il cuore alla fine, perché è quella dedicata comunque alla persona che vorresti dirgli tutto in quel momento. È la canzone d'amore proprio che vorremmo fare alla persona a cui vogliamo bene, cioè a qualsiasi magari persona la può ascoltare e la può dedicare. Identificarsi, chiaramente. Può identificarsi, quindi sono quelle parole che magari non hai la forza di dirgli un grazie, non hai la forza di dirgli un ti voglio bene o un affetto caro, quindi ho voluto raccontare con questa canzone comunque il bene per la persona che ho vicino, comunque per tutte le persone che abbiamo vicino a noi, quindi è quella dedica che abbiamo nascosto. Certo. E questa mi sta più impressa. Sì. Perché comunque è una storia dietro, a prescindere da quello che ha detto adesso. Quello che ha detto Manuel adesso. Mm. Perché una mattina presto mi squilla il telefonino alle 4 del mattino. Perfetto. Chiedera. Vuoi tenerli in sospeso e la facciamo ascoltare gli finale dopo? Sì, diciamo perché dopo. Se gliela racconti tutta. Dopo sveli il segreto di questa canzone. Ha ragione. Rimaniamo che il cellulare ha squillato alle 4 di mattina. Allora, e poi diremo il perché. E poi diciamo il perché. Intanto ascoltiamo la canzone. Benissimo. Sei tu. Sei tu la forza che non ho mai avuto. Esatto. Giuro, sai, si apre un mondo quando osservo gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Sono in Meschina. Sole su di noi, regna nostalgia, come un'onda blu nel mare, confondi i miei perché. Le foglie gialle cadono, ma tu non cadi mai, soffia via i ricordi, sei grande e forte ormai. Falsi dei nel mondo che non c'è, fate boschi e fiabe nel mondo dentro te. Con amore. Sono le 23:52 minuti primi in questo momento, ragazzi. Ancora pochi minuti in compagnia di Meschina, Maurizio. Sì, allora, velocemente, Gianluigi, devi dire il finale della, esatto, della esatto. canzone. Niente, il telefono squilla alle 4 del mattino, Manuel che mi dice: oh, ma sei sveglio? A Camano sono le 4 del mattino, che è successo? Davvero, sicuramente no. Una cosa non è, grave. Non è una cosa inventata, questa è la realtà. No, questa è realtà. È vero, è vero. Ascolta, io non riuscivo a dormire, è nata una nuova creatura. Oh mio Dio. Alle 4 del cosa mattino, hai scritto? Una cosa... Niente, manda di me, manda quello, manda l'altro, e così... Finito tutto, ho ricevuto i messaggi, io alle 4 e mezza, perché poi tra prendi, fai, sì, scarica, mi sono messo alla tastiera. Sei andato alla tastiera? È andato il l'indomani l'ho chiamato, io verso le 3 del pomeriggio, perché poi dalle 8 ho dormito. Esattamente. Dicendogli: guarda, io ho messo la musica alla tua creatura, l'ho vestita, proviamo. E così è nato. E vestito è nato, sei tu. Ah, bene. Quindi... poi ci siamo visti in sala prove, ci hanno presentato bene questa nuova creatura. Io ovviamente mi sono messo con la chitarra in una posizione, diciamo, in input. Mm. Perché dico, devo capire. Deve ricevere. Mm. Finita questa canzone, finita di ascoltare, Gianluigi mi dice: qui voglio una cosa tra Brian May, il chitarrista dei Queen, e Steve Lukather, che è il chitarrista dei Toto. Certo. Fai te. Un misto. Non gli ha detto niente alla fine, non gli ha chiesto. No. Quanto tempo mi lasci a disposizione? Una settimana. E dopo? Va bene, ok. E l'hai fatto. In quella settimana lì mi sono ascoltato tutti i brani dei Toto, tutti i brani dei Queen, ho cominciato a inventare qualcosa e ho detto: oh, io ho inventato queste cose qua. Ti piacciono o non ti piacciono? Ho detto sì. Mi piace come inizi, farei un'altra cosa, diciamo, un po' diversa, e poi se riesci a migliorarmi in maniera melodica un'altra parte, è perfetto. Vedi. Cioè, quindi... vedi. Quello che dicevamo prima, il gioco di squadra. Vedi come si fa una canzone, non è mica semplice, no, non è mica una no, cosa così da buttare. No. Bene, adesso Manu deve dare i tuoi riferimenti, i vostri riferimenti. Certo, comunque per trovarci, per chi ci vuole venire a trovare, a cercare, a vedere i concerti che abbiamo, per chiederci domande, qualsiasi tipo di contatto per cui ci volete trovare, cercate comunque su Facebook, che penso che sia uno dei canali adesso più usati per gruppi o comunque persone, cercando Meschina con la K. Quindi da lì potete trovare Meschina Rock Band, comunque quella è un'altra pagina, sì, anche per gruppi, sempre Meschina Cover Rock Band, che anche per la parte di cover che seguiamo, questa è un'altra, anche un'altra nostra pagina, la primissima è la nostra, è Meschina con la K, dove ci possono chiedere di tutto e di più e avere le informazioni aggiornate su concerti, date, il disco, anche il disco, che intanto ringraziamo anche il produttore del disco che ci ha prodotto, che è stato il maestro Carlo Cantini, che è il produttore comunque dei Sonora e il violinista di Antonella Ruggero, quindi un grazie di cuore anche lui, che ci ha aiutato tantissimo in questo nostro progetto, ci ha dato consigli, ci ha fatto entrare in punta di piedi nel suo studio e ci ha fatto uscire davvero delle grandissime persone con un cuore più grande, perché ce l'ha riempito davvero di informazioni, di consigli, di certezze, anche perché siamo usciti da lì che avevamo una creatura nostra da far ascoltare, quindi è stato una bravissima e buonissima persona, quindi un grazie anche a Carlo Cantini per quello che ci ha fatto. Benissimo, abbiamo concluso, però adesso Gil, non so se lo sai, come sempre cambio tutto, finiamo con due pezzi live, ehi, uno dietro l'altro. Perfetto. Li presentate e chiaramente ci salutiamo qua, certo. Grazie a Gil in regia, che dimmi. Io volevo fare un appello. Ah, si fai l'appello? Sì. Sì, volevo fare un appello, perché Meschina veramente farebbe tanto piacere di cuore trovare qualche concerto anche a Padova, quindi qualcuno è fosse sì, interessato, un pub, un locale, una piazza. Vorremmo conquistare anche una parte di pubblico padovano. Esatto, certo. Perché no? Quindi, si offrono, no, quindi, Meschina si offrono a suonare. Ci offriamo a suonare anche qui nel Padovano. Perfetto. Per chi fosse interessato, contatti appunto le pagine. Così ci divertiamo insieme. Chiaro. Allora, la prossima canzone è, penso, una delle ultime dell'album, si chiama Pazzo Venerdì, si chiama racconta di un... ho voluto raccontare una serata un po' particolare che mi è capitata, e con frasi un po' buffe, e molto particolare. Poi li salutiamo tutti tutti quelli gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché comunque un grazie. Spettatori delle fotografie, certo, poi più tardi. Dopo avremo tutto, certo. Quindi a tutti gli ascoltatori. è un grazie di cuore anche a Blu Radio Veneto che ci ha ospitato qui, a Alberto, a tutti voi che siete stati delle bravissime persone, e con cuore vi diciamo un grazie grande così per averci ospitato nella vostra trasmissione. Dimmi. Volevo dire anche che comunque questo progetto di Meschina che sta andando avanti, vogliamo anche ringraziare veramente di cuore le nostre famiglie per appunto la pazienza che ci mettono, il fatto che noi andiamo a provare nei consigli, certo. E spesso e volentieri rimangono soli. Quindi grazie anche a loro. Allora, pazzo venerdì, e dopo finiamo con un finale a sorpresa di una bellissima canzone di Dolce Nera. Ah, ok, sì. Ok. Gil. Sì, allora io direi li nominiamo uno alla volta. Certo. Grazie a Manuel Guarnieri, alla voce. Grazie a voi. Grazie a Gianluigi Mameli, alle tastiere. Grazie, buonanotte. Grazie a Gianluigi Cortesi, alla grazie chitarra. Grazie di tutto, grazie dell'ospitalità. E grazie anche se non sono presenti con noi, li ricordiamo comunque a Marco Mossini, al basso. Il Bobby. E Federico Fede. Lorenzini, alla batteria. Fede. Ciao Fede! Okay. Ciao grande Fede. E ciao, quindi Fede. Grazie ai Meschina, veramente ottimo rock italiano. grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie grande Blu Radio Veneto. Veramente. Grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Bye bye. Due giorni che sei andata via, e resta dentro solo un po' di nostalgia. Il tuo rossetto è ancora lì, vestiti sparsi, ma è bello pensare che sei qui. Che sei qui, come quel pazzo venerdì. Ci siamo presi, strappati i capelli e i ricordi più belli. Siamo baciati per ore, per ore, per ore, facendo l'amore senza pensare che fuori piove. O forse c'è il sole. Il tempo passa ma non sei più mia. Sento, ti giuro, mi dà malinconia. Il tuo profumo è ancora lì, su quel cuscino che non tocco ormai da secoli. E secoli, come quel pazzo venerdì. Ci siamo presi, strappati i capelli e i ricordi più belli. Ci siamo usati per ore, per ore, per ore, facendo l'amore senza pensare che fuori piove. O forse c'è il sole. Ricordo, mi viene un nodo in gola, non restare da sola. Io sono ancora qui. Ci siamo presi, strappati i capelli e i sogni più belli. Ci siamo arresi urlando al cielo. Serviva davvero, ci siamo baciati per ore, per ore, ci siamo baciati per ore, per ore, ci siamo baciati per ore, facendo l'amore. Faccio così, grido di più, voglio che tu da lassù mi ascolti. Chi se ne frega se gli altri lo sanno, non mi fai più paura, non ho paura. faccio così, grido di più, voglio che tu lassù mi ascolti, chi se ne frega se gli altri lo sanno, non mi fai più paura, non ho paura, no. Faccio così, grido di più, voglio che tu da lassù mi ascolti, chi se ne frega se gli altri, gli altri lo sanno, non mi fai più paura, non ho paura.